All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E signori, bentornati alla cena dei regini. Applauso! Io sono il Bach, bentornati all'House of Bach, dove ogni settimana facciamo questa cena per parlare con chi collabora con me, con gli amici che ci vengono a trovare. Questa sera ospiti d'eccezione che ci verranno a parlare di Reggio e della rilettura, della ricostruzione, per come dirlo, questo in chiave culturale di Reggio. Ma prima, ragazzi, dedichiamoci a noi con un angolo di musica di Dennis Logan e Manhattan Project. We must pray. E bentornati il back.it, cliccate la cena dei regini per comunicare con noi, per venirci a trovare e per ascoltare le puntate precedenti che sono disponibili, scaricabili tramite il podcast. Adesso ripercorriamo la settimana che è stata, quello che abbiamo fatto l'ultima settimana e quello che ci aspetta nelle prossime giornate. In particolare abbiamo visto Laos il protagonista di un concerto molto focoso, il Bluestone dei Psycho Fellowship, una serata molto bella, dove comunque c'è stata anche un bel po' di affluenza delle persone che si sono dedicate a divertirsi e a divertirci, insomma. Bluestones, come definire Bluestone, Alessandro? Gruppo post-grunge? Con influenze stoner, rock and roll. E quindi avete capito? Più o meno. Se gli altri, l'altro gruppo si chiama Psycho Fellowship, quindi la compagnia degli psicotici. Sì, già il nome dice tutto. Diceva tutto, è stata una bella serata. Altra bella serata, la serata Super Mario Kart, dove abbiamo giocato alle vecchie glorie della GameCube. Che poi alla fine neanche tanto Super Mario Kart, in quanto ci siamo un po' dilettati con i bonghi di Donkey Kong, visto che fa una fantastico, un giochino che ha preso un po' tutti, particolare, che poi è stato un po' il capostipite del genere di dei vari rock band, delle varie dei vari giochi di questo genere. E poi la serata di cinema, ovviamente le proiezioni che continuano ogni lunedì, questo lunedì Kick-Ass, e poi andremo avanti a Dio piacendo su questa linea. Ma soprattutto domenica prossima Mystery Night Japan Horror Story, dove praticamente è un po' particolare, molto particolare, perché i protagonisti, i giocatori, saranno chiamati a risolvere un caso che si basa su questo parco che è stato chiuso al pubblico perché ci sono stati diversi delitti. Quindi le storie di questi ragazzi, ricostruire i delitti, ma soprattutto un background un po' misterioso, esoterico, diciamo. Esoterico. Dove la ditta Takeru. Cioè, come dicono a Ottawa, Takeru. E tu ci sei stato centinaia di volte, no? A Ottawa sì, ma ecco. Peccato che è in Canada. Ma quella era Ottawa. Ottawa. Porta a casa. Altro distretto giapponese. Senza togliere questo lone di mistero su questa serata. Sì. Cosa vedremo? Vedremo molte leggende giapponesi che si materializzeranno nel campo del Laos. Vedremo delle forze oscure che cercheranno di corrompere i nostri giocatori. Ce la faranno a resistere? Ce la faranno a scoprire il mistero che c'è alla fine? Non lo so manco io. E quindi? E non lo sanno manco loro se non vengono a giocare. E quindi venite a giocare, ma che fate a casa? Prenotatevi, sul sito c'è la possibilità già da adesso di prenotare la propria partecipazione. E quindi partecipare a questa serata. Tra l'altro ci sarà l'open buffet per tutta la serata. Sì, infatti, comunque alla fine i nostri eventi, con una piccola quota di ingresso, ti danno, oltre allo spettacolo, una bella organizzazione, la possibilità di giocare e di divertirti insieme agli altri, e in più un bel buffet che, voglio dire, non manca mai, non fa mai male. Che bello. È bello arrivare al cuore della gente, ma anche alla panza delle persone. È perché se vai solo al cuore, poi sotto si sente un po' un buchino, sai? È meglio riempire pure lo stomaco, no, fa più compagnia. È vero, ma ragazzi, speriamo che funzioni. E adesso parliamo insieme a Alessandro dello Zio Pangolo Fest anno terzo, sì, quindi con tante difficoltà si è arrivato all'anno terzo. Siamo arrivati a quest'anno terzo, quindi questa manifestazione che hai creato tu è esattamente un ormai 3 anni fa, come si poteva vagamente intuire dal titolo. Giustamente, da cosa nasce lo Zio Pangolo Fest? Nasce innanzitutto dalla voglia di alcuni musicisti reggini di far conoscere la propria musica in giro per la città, sperando che non rimanga soltanto confinata appunto al giro della città. E poi insomma si cerca con l'andare avanti degli anni di espandere sempre più questa specie di festival, e non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista extra musicale, e qua appunto viene in aiuto il Bach. Infatti durante questa serata che si terrà a Laos quest'anno faremo non solo musica ma anche giochi di gruppo, il famoso Angry Birds Umano, lo Shanghai Gigante, un torneo che tra l'altro già abbiamo avuto prenotazioni, gente entusiasta di questi giochi. Venite, mi raccomando, che qua c'è bisogno di uccelli umani da lanciare. Wow. E comunque è un momento particolare perché sono le palle che si lanciano. Unire il gioco 1.0, questo gioco di squadra eccetera, comunque a un momento di musica, vogliamo dire di stampo nonsense, vogliamo dare un'idea. Beh, è difficile catalogare il genere dei, non l'ho detto prima, ma suoneranno questa serata due gruppi, sono gli Alice Guarda i Matti, fanno un po' alternative rock più o meno classico. Anche se fan di titolo, De Gregori, penso proprio di sì. Fan scontenti di De Gregori. E poi ci saranno i Biodegradables. In cui suono. Detto all'inglese. E in realtà, vabbè, insomma, l'origine del nome è un po' particolare. Perché ha due origini. In realtà, la prima, la leggenda vuole che è la nasca dal modo di pronunciare la parola biodegradabile da parte della nonna di uno dei componenti. La seconda da un pensiero filosofico basato sulla visione di una busta che si trova su un albero da svariati anni, e si pensava: questa busta non è biodegradabile, è uscita questa cosa e da allora è rimasta. Pensando un po' al parallelismo tra la busta e lo scorrere della vita, quando l'arte nasce da nulla, così dal momento è genio e sregolatezza, qua è più sregolatezza. Sì, decisamente. Però è una cosa fantastica. Parlavamo appunto della catalogazione, come si dice catalogazione? Lo stile, diciamo. Lo stile musicale, sì, diciamo che è all'interno della grande famiglia del rock demenziale. Poi insomma si sconfina un po' ovunque, dal jazz al metal, dalla Pausini al i Rage Against the Machine, quindi proprio non ci sono confini, diciamo. Quindi andate a fare cover di questi? No, di questi, no, sono composizioni inedite. Inedite, però che si ispirano a questi. Diciamo che mirano più ad essere una presa in giro di determinati stilemi musicali che interpretano in questi tempi, sono praticamente espressione del vuoto che c'è dal punto di vista della qualità musicale, soprattutto italiano. No, è particolare perché non underground. Simile, no, quello è un altro cartello. Assolutamente. Anche perché dicevo è particolare perché mi sembra che a livello di questo genere, diciamo, sul demenziale, rock, nonsense e via dicendo, non ci siano altre manifestazioni di questo stampo qua nel territorio. No, assolutamente. Siete già al terzo anno, quindi vuol dire che gli altri due anni vi è andata bene. Abbiamo avuto un buonissimo riscontro di pubblico, perché infatti se si pensa, dobbiamo dire anche perché si chiama Zio Pangolo Fest, tra le varie cose. Ovvio. Che non tutti sanno che qui, nelle zone di Reggio Calabria, anguria si dice in dialetto un zipangolo, da qui la parola zio pangolo, proprio perché durante il concerto è prevista la distribuzione gratuita, oltre all'ingresso ovviamente, che non è gratuito, però comprende tante altre cose, tra cui l'evento ludico, buon marketing, No, comprende nel prezzo iniziale, diciamo, una porzione gratuita di anguria. Fantastico. Da consumare durante il concerto o da lanciare ai musicanti, come si preferisce, diciamo. Ah beh, si può fare anche questo. Che poi tagliata l'affetto, fa tipo boomerang. Esatto, esatto. L'importante è che non ce la lanciano intera, perché quello già è fantastico. Fa male. Non pensavo, cioè voi già state paventando l'idea che vi potrebbe arrivare addosso la langue. Di solito negli due anni precedenti non è successo, però non si sa mai nella vita. Però non lo so. Diciamo gli scongiuri sono top. Vai a dare questa idea alla radio. Ragazzi, poi c'è la fionda gigante. Guarda che già ci sarà in scena il balestrone da Angry Birds, quindi attenzione. Dovrò transennare la zona. È grave, è grave. Bisogna mettere uno schermo in plexiglass davanti alla... Vabbè, se ci sono le squadre dell'ultima volta, non so, vorrebbero non arrivare mille palloni e non perdere mai. La seconda squadra. Soprattutto che salutiamo calorosamente. Ancora c'è. Avete perso! C'è, ancora c'è una rivalità latente su tutto il qua pezzo. Non entro in merito per non inimicarmi la gente. Venite a sentirci. È stata una cosa fantastica, perché comunque l'Angry Birds umano c'è una fase in cui si costruisce e l'altra è così distrutto. Certo. Quindi è una cosa in cui tutti sono impegnati. E come si è visto anche nel video in quella serata famosa, ci si può mettere anche del metodo nella costruzione, perché degli scatoloni messi in una certa maniera, come le costruzioni normali, cioè possono avere più tenuta di un'altra, e quindi in quell'ora di gioco saranno già scatenati 2000 pensatori, 2000 ingegneri, quindi sarebbe bellissimo. Comunque, sì, insomma, sono entrambe, sia la parte ludica che la parte musicale della serata, sono delle cose che devono bellissimo fare stimolare la gente che viene ad ascoltare. Ovviamente sì, quindi Zio Pangolo stimolare anche il senso brutto, secondo me, questo è il contenuto di alcuni test. Ma speriamo sempre in senso positivo. Poi assolutamente, l'importante è la contentezza del pubblico. Zio Pangolo Fest è il 27 agosto, sì, i cancelli aprono verso le 8, poi alle 8 e un quarto, 8 e mezza iniziamo i giochi, e poi la sera si andrà a suonare Anguria Fest alla grande. Assolutamente. Un ultimo messaggio da dare a chi si sta preparando per venire allo Zio Pangolo Fest, che tra l'altro oggi ho sentito il DJ che fa il DJ set, già è gasatissimo. Madonna. Che bello. Quindi già è... Ultimo messaggio, beh, a parte che venite numerosi, andrà in radio. Questo è meraviglioso. No, te lo dico cosa, per il contenuto del messaggio. Ah, allora un attimino me la devo pensare appositamente questa cosa. Che gli dici? Venite numerosi. Venite numerosi. Punto. e siamo qui, ci è venuto a trovare ospite d'eccezione, il maestro Nino Spezzano. Ah, addirittura l'applauso, è stato buono. Il minimo. Come va Nino? Bene, stasera è una bellissima serata, sono veramente compiaciuto veramente. Insomma, di scoprire questo fermento, insomma, questa capacità, insomma, questa voglia di emozionarsi di voi, insomma, che siete una generazione appena prima di me. Io sì, proprio appena. Però il discorso è che hai beccato una serata in cui siamo pochini, perché ci sono più persone, però la cena dei regini continua, l'idea di ritrovarsi una volta a settimana e fare una cena in questa società molto 2.0, molto distaccata, molto distante, è carino secondo me fare una cena in cui ci si ritrova, ci si sta insieme, diciamo. Ma è bello anche trovarti. Tu sai che io sono un musicista, non sviolinatore, mi definisco, per cui parlo sempre così, di getto, un po' improvvisando, sempre come fosse l'improvvisazione jazz. No, devo dire che... Parliamo per chi non è di Reggio, ci ascolta da fuori. Vuoi introdurti un attimo come artista, quello di cui tu... La tua musica ti dirigi più sul genere jazz, sei un maestro comunque. Ma io diciamo che nella mia vita ho suonato un po' di tutto, amo la musica globalmente, sono un fatto globale, per me la musica non esiste, esiste una buona fede di chi si esprime con la musica o meno, però la musica fatta bene, fatta col cuore già dice tutto, no? No, sono entusiasta sinceramente di vedere quanta carne al fuoco c'è in un'esperienza del genere, perché tu sai benissimo che io sono cose che ho nelle mie, diciamo così, follie tra virgolette, ho cercato di realizzare. Ci siamo conosciuti quando esisteva il Birdland, che era questo spazio, un locale, no? Di cui parlo spesso anche allora. Quindi il Birdland voleva proprio proporre questo, cioè trovare un nuovo spazio espressivo. Infatti si sono esibiti un po' tutti i giovani, tutti i gruppi musicali di Reggio, bene o male si sono esibiti in questo locale. Non dicevo carne al fuoco, nel senso, intanto mi piace il concetto che non si parla di una realtà underground, quindi c'è una voglia di comunque di comunicare alla luce del sole, no? Ovviamente sì. Ed è anche di creare uno spazio che sia comunicativo per tutti, quindi uno spazio dove c'è dalla proiezione cinematografica fino alla musica, l'arte si può gustare in generale. Certo, no? Ripeto, ci sono delle, anche il modo di porsi, l'ironia, poi alla fine l'ironia è il collante ideale, no? Per chi vuole esprimere delle cose, che d'altro canto il comico e il tragico, sì, in letteratura, negli archetipi, in tutte le forme di arte, si equiparano, no? Quindi hanno lo stesso valore. Due facce della stessa medaglia. Infatti è interessante stasera avere alla stessa tavola Nino, che rappresenta un po' il lato, diciamo, più, come dire, classico della musica, più sì, di chi ha fatto, di chi ha studiato il solfeggio nella sua vita, insomma, diciamo, è Mister Zio Pangolo Festa. No, Alessandro, che ha il lato dissacrante, il lato ironico dissacrante, quindi è bello anche questa. Ma comunque l'origine, cioè, credo sia la stessa per entrambi. Ma io personalmente, diciamo che vengo da un'esperienza particolarissima, per cui avendo vissuto a Bologna, avendo studiato al DAMS nei tempi in cui si faceva la sperimentazione era d'obbligo, per cui allora l'insegnamento era basato su un approccio assolutamente umanistico, per cui non era tanto il tecnicismo, questo come fatto didattico anche globale, no? Insomma, avendo fatto qualche anno anche di insegnamento con i ragazzi, 20 anni di scuola media, 10 anni di conservatorio. Ma mi è rimasta sempre questa formazione, l'approccio umanistico, dove il gioco, no? L'aspetto ludico devono venire prima ancora dell'aspetto tecnico, che è una scelta precisa, una scelta espressiva, il tecnicismo, il virtuosismo, no? Quindi, questo posso dire, è aperto a tutti i linguaggi. Alla fine io ho suonato la musica world music, musica etnica, le contaminazioni di cui parlavate voi prima, no? La contaminazione è una delle esperienze secondo me più avanzate nell'arte, nel senso che tentare la contaminazione, di solito nelle arti, diciamo, i veri contaminatori sono gli innovatori, no? Cioè, chi innova, chiaramente, però certo. Anche nel piccolo si è innovatori quando si tenta la contaminazione, no? Perché l'arte è anche trasmettere, parlare alla gente e comunicare, quindi alla fine, qui, al di là dello stile, anche sapere cogliere l'eredità dei grandi del passato. Ovviamente sì, saperla. Certo, la lezione dei maestri, e va tenuto conto della lezione dei maestri, ma sempre chiaramente cercare la propria espressione personale in un mondo che è convergente a sul fatto, no? Io mi ricordo che quando si parlava della creatività a livello giovanile, no? A livello dei ragazzi della scuola, si dava una valutazione. E per esempio c'era questo aspetto della divergenza, no? Il divergente e il creativo per eccellenza, no? E quindi pensate quanto posso capirvi, quanto vi posso essere vicino auspicando una città di creativi, no? Non lo dico io, ma lo dice un altro personaggio, esatto, più accreditati di me. Allora, la domanda secca: la cultura salverà Reggio Calabria o comunque il sud in generale? La cultura come riscatto, la cultura come ricostruzione, come chiave di lettura, secondo te, che comunque hai vissuto varie esperienze di vita, varie esperienze artistiche? Ma sai, la cultura, come tutte le esperienze umane profonde e indispensabili, e diciamo che la cultura, lo scopo della cultura qual è in effetti? Ci sono tanti scopi, non c'è uno scopo solo, ma uno secondo me è basilare e preliminare a tutti gli altri. La cultura è la chiave di accesso alla percezione, no? Amplifica la nostra percezione della realtà, ci fa vedere le cose nella giusta luce, ci permette di sviluppare uno spirito critico pressoché assente, no? Adesso siamo nell'era del qualunquismo, no? Tanto non vale la pena fare niente, perché nulla cambia, e questo è un atteggiamento assolutamente negativo e deleterio per sé e per gli altri. Controproducente, perché comunque lascia spazio ai poteri forti o comunque al... Assolutamente, ma la storia dell'uomo ci insegna, voglio dire, senza voler filosofeggiare, ci insegna che il primo modo per poter dominare gli altri, per poterli prevaricare, è quello di spezzare l'entusiasmo, no? Se andiamo a vedere la parola entusiasmo, cosa significa? Dal greco entusiasmo significa il Dio che c'è in noi, che c'è in me. Il Dio che c'è in me è la parola entusiasmo. E quindi diffondere questo concetto è basilare, perché significa proprio rilanciare la voglia di vivere, la gioia, di installare la gioia nell'animo delle persone. Quindi la musica, ma qualunque essa sia, purché sia veramente, nasce da una voglia di comunicare, e se poi c'è un messaggio ancora, perché dietro c'è un background di chi fa musica, allora ha un valore fondamentale. La cultura Reggio Calabria è l'unico strumento che ci permetterà di risalire alla chi. Non ci sono altre. Ma cultura significa comunicare, significa incontrarsi questa sera. Ecco, questo è, per esempio, questa esperienza dell'incontro, della condivisione, questi sono temi che nell'era attuale forse possono sembrare un po' demodé, io forse, nel dire queste cose, ma la comunicazione, l'incontro, la condivisione, la compartecipazione, la voglia di creare qualcosa assieme, sono delle cose che non si può prescindere. Infatti, ma l'incontro anche da un punto di vista umano, oltre che solo comunicativo, quindi anche... Io dico sempre la cena, che è la cosa più 1.0 che sia mai esistita, con l'idea del comunque imprescindibile 2.0 delle possibilità che abbiamo adesso. E quindi quello sì. La cultura per il sud in particolare, per Reggio nello specifico, inutile stare qui a dire come sempre che abbiamo grandi possibilità, che possiamo fare grandi cose, certo, eccetera. Certo. Quindi ci vogliono dei progetti precisi, delle idee che siano comunque, che vadano a convogliare, che vadano a delineare razionalmente ma anche realmente quello che può essere il progresso culturale. Perché ad esempio io vedo tanti ragazzi, tantissimi ragazzi che hanno voglia di fare, che hanno voglia di costruire, voglia anche di mettersi in gioco, eccetera, però sono frenati da un background che comunque è un po' retro, un po' chiuso. Adesso, in questo momento storico in particolare, in questi ultimi anni, anche la, chiamiamola un po', preoccupazione per comunque tutta un'evoluzione di vita, che comunque c'è quasi l'inevitabile dover andare all'estero, l'inevitabile dover sfuggire da una realtà presente in Italia, in particolare nel sud. Ma diciamo che se andiamo a parlare di cultura, diciamo, apriamo degli abissi infiniti, certo. Perché noi se parliamo di cultura a Reggio Calabria, tanto per fare un esempio, dobbiamo subito pensare a un discorso di decolonizzazione, per esempio, la decolonizzazione. perché puntare solo sul consumo passivo, perché sostanzialmente se andiamo a vedere un po' le esperienze, quelle che ci sono passate, anche le occasioni che ci sono passate sulla testa, sono dovute anche al fatto che abbiamo più prestato il fianco, diciamo, a un consumo passivo di eventi spesso importati, ma questo mi sembra quasi banale ribadirlo. Lo dico piuttosto che ci sono veramente, intanto la cultura ha bisogno degli spazi anche per la cultura, no? Perché si parla di come la musica, ci sono i luoghi della musica, no? La cultura ha bisogno, ma ha bisogno anche di una formazione delle sensibilità. Perché se io parlo del cinema, per esempio, se parlo di musica, se parlo di arte, se parlo di fotografia, cioè tutto ciò che è produzione immateriale, se vogliamo, no? Perché in un mondo globalizzato, se ricordate qualche anno fa si parlava di globalizzazione e di glocalizzazione, no? Mm-hmm. Nel globale c'era il locale. Mm-hmm. Quindi questo è un, non che mi stia simpatica la globalizzazione in senso lato, in senso, diciamo, non entro nel discorso economico eccetera, finanziario eccetera, dove lì però voglio dire, il concetto comunque, visto che comunque sta globalizzazione insomma è avanzata, si può dire che siamo in uno stato avanzato della globalizzazione, no? Io penso anche un po' ormai rimediabile. Quindi voglio dire, allora se non produci, se non hai la capacità di esportare qualcosa di materiale o immateriale che sia, no? Mm-hmm. di un potenziale mercato, allora già sei tagliato fuori. E in questo allora il discorso nasce un discorso di produzione locale, di creatività locale, di spazi adeguati e di chance, di opportunità che vengono offerte ai giovani. Mm-hmm. Se ricordate qualche anno fa si parlava sempre di questa, della formazione, la formazione, la formazione. Adesso è diminuito moltissimo questo concetto della formazione, ma io sono ottimista nel senso che ottimista e realista, ma realista nel senso che comunque diciamo oggettivamente siamo in un momento di disastro globale per tanti motivi, sia a livello nazionale che a livello locale, poi a livello locale veramente. Però nel concreto c'è la possibilità, perché comunque ci sono gli strumenti, la Calabria spende miliardi di euro per eventi culturali che spesso non lasciano, dico proprio miliardi, sto parlando, non sì, dico sì, milioni, sì, parlo di miliardi di euro, che non lasciano nessun segno sul territorio il giorno dopo. Ecco, quindi questo è un aspetto importante. Nello specifico, se volete vi dico due parole sul distretto culturale. Per esempio, il distretto culturale. È una cosa, per esempio, che molti non sanno che cos'è il distretto culturale, cosa potrebbe essere il sistema turistico culturale a Reggio Calabria, perché noi abbiamo dei grandi attrattori dal punto di vista turistico e culturale che potrebbero risvegliare la città completamente. Anzi, per la verità c'era questo progetto, era previsto, finanziato anche con dei fondi POR. Per mancanza di programmazione, e qui entriamo nel discorso della progettualità, della programmazione, del saper guardare lontano, per questo motivo il distretto culturale non si è potuto realizzare, questi fondi sono stati deviati su altre cose. Mm-hmm. Ma adesso comunque c'è tutta una certa possibilità dei fondi europei di accedere a questi finanziamenti, per il quale, ripeto, occorre una programmazione l'anno prima per l'anno dopo, cioè ci si programma molto. E il distretto culturale significa proprio che noi abbiamo un museo della Magna Grecia, con i bronzi, con tutto quello che rappresenta, uno dei musei insomma sicuramente più importanti, con tutti i limiti e i soldi che si sono spesi fino ad oggi. Poi abbiamo un teatro comunale, abbiamo un'arena Lido che è spettacolare, abbiamo un'arena dello Stretto che ha pochi eguali, abbiamo la Villa Zerbi con via Zaleuco, che nel progetto del distretto culturale dovrebbe diventare la via degli artisti, la via della cultura e dell'arte. Mm-hmm. Che passa appunto davanti a Villa Zerbi, dove c'è la libreria, c'è il ristorante, e alla fine della via c'è il Cineteatro Orchidea, che molti forse non sanno che il Cineteatro Orchidea è proprietà del comune, è stato assimilato dal comune, andrebbe restaurato, andrebbe... È chiuso, sì. Ma là non c'era il cinema. Sì, c'era il cinema, c'era il teatro, cinema, e c'è anche una galleria, non c'è solo la platea ma c'è anche una galleria, quindi è molto molto interessante come spazio. Molto. Poi abbiamo il Teatro Siracusa, che attualmente è in un altro spazio della città. Ecco, io devo dire questo, lo voglio dire agli ascoltatori, anche insomma, sinceramente non mi ha mortificato il fatto che il comune sia stato sciolto, commissariato e tutto il resto, non mi ha mortificato anche tanto il fatto che la città sia sommersa di rifiuti, purtroppo per tutti noi, ma sinceramente la mortificazione più grande, posso dire, da quando sono nato e cresciuto a Reggio Calabria, è stato quello di vedere che al posto di quel fantastico cineteatro che era il Margherita, che vedere che è stato fatto un negozio di abbigliamento. Ecco, è terribile. Questo, che struttura, cara, guarda, che struttura. Quindi se ci pensate un attimo, noi siamo stati spogliati di un bene prezioso, perché un teatro sul Corso Garibaldi come quello sarà difficilissimo che possa rinascere. È morto un pezzetto di tutti noi, di chi ha vissuto una certa generazione, insomma, chi ha vissuto le stagioni del jazz, del grande jazz che si è fatto anche al Margherita, eccetera. E così tantissimi altri spazi che ci sono, insomma, che possono entrare in questa. Abbiamo l'Accademia, abbiamo un conservatorio, abbiamo delle scuole private d'arte. Cioè, Reggio è una città che il 20% delle persone, 25-30%, vive solo di musica, vive almeno un 15% delle famiglie reggine. Se ci pensate, vive nel senso, fa insegnanti, fa negozi di musica, fra musicisti, fra scuole varie. Già nell'adesso c'è tutto. Già c'è un bel circuito, c'è un bel fermento. Quindi, il distretto culturale sarebbe creare questa specie di, come dire, percorso, diciamo, questa concatenazione di realtà locali che farebbero un interscambio anche tra di loro, ovviamente parli di un ambiente sì, unico. Sì, assolutamente. Io sono dell'avviso che il comune, questo concetto di bene comune, che deve ritornare al centro di tutte le esperienze culturali. Cioè, se noi adesso non vado nei particolari a dire cosa abbiamo perso noi, perché entreremmo in discorsi forse troppo dettagliati, che è difficile da fare in pochi minuti, ma noi abbiamo perso delle grandi occasioni. Noi, i crediti, noi abbiamo aperto le porte a tanti che sono venuti da fuori, si sono appropriati dei nostri spazi, hanno avuto il nostro sostegno, e adesso si sono presentati presso i ministeri, presso la comunità europea, e hanno avuto i massimi riconoscimenti. C'è gente che prende un milione e mezzo solo dal Ministero dei Beni Culturali con i nostri crediti che abbiamo ceduto a loro. Mi fermo qui, su questo tema. No, vorrei aggiungere, se c'è il tempo, se non mi sono dilungato troppo. No, volevo aggiungere una cosa importante. A questo distretto culturale io collego proprio un concetto di rigenerazione urbana, attenzione, perché venendo al discorso degli spazi, no? Con questi giovani come voi, come tutti questi artisti, diciamo così, che anche vorrebbero esprimere qualche cosa, non mancano di spazi. Quindi nel distretto culturale io intendo i punti di quartiere, di laboratori di quartiere, centri di aggregazione giovanili dove puoi elaborare un pensiero, una comunicazione e soprattutto arricchirti emozionalmente. Perché il problema dei giovani in una città come Reggio Calabria, lo dico perché sono stato anch'io giovanissimo, è un po' una punta di emarginazione culturale, questa mancanza di ricchezza emozionale, di stimoli emozionali. Ecco, questo sarebbe un primo. Quindi immagino un distretto culturale al centro, con tutto un fermento, con dei satelliti in tutti i quartieri, di laboratori, di punti di incontro, che si fanno con pochi soldi, attenzione, non stiamo parlando di cifre astronomiche, non servono grandi strutture, non però servono indispensabili punti diciamo spazi di aggregazione. Fantastico. Spazi di pensiero, di elaborazione. Questo è... Però se posso dire la mia, non è soltanto un discorso di spazi a un certo punto, è anche un discorso di voglia. Certo, perché manca anche quella, perché purtroppo oltre agli spazi cioè lo noto comunque facendo sempre il paragone tra una realtà che non è quella reggina, che è quella in cui lavoro e vivo, e quella di appartenenza e diciamo di casa, che è reggina. Manca proprio la cultura dell'aver bisogno di cultura. Tu dici vedo una strafottenza le reggine in generale. Esattamente. Se ci fosse lo spazio, avrei comunque paura del fatto che la gente non sia interessata appunto a usufruire di questo spazio. Ma per questo io parlavo che di... è anche questa una cosa da cambiare. Questo dicevo entusiasmo, ho citato il senso della parola entusiasmo, che lì è tutto, perché se ti manca quello, ti manca la motivazione, e soprattutto il problema che spesso però riconosco perché anch'io una caratteristica nostra generale, di noi regini in particolare, no? Che spesso le nostre famiglie ci dicono: ma lascia perdere, ma che te lo fa fare, ma lascia stare, stati per i fatti tuoi. No, è un po' di esempi, sì, personalmente le posso fare anche sì, ma vi assicuro che questo purtroppo sono io la interpreto così, ma i fatti mi stanno dando ragione. È una forma di negatività di pensiero, di atteggiamento psicologico, che però è insita nella mentalità regina e che viene inculcata soprattutto dalle generazioni precedenti a quelle nuove. Guardate, io ho coniato un termine preciso per questa cosa qua, mi sono dato una mia spiegazione. Cioè io l'ho definita questa timidezza, chiamiamola così, questa incapacità proprio di appropriarsi di se stessi, del proprio futuro, del proprio destino. Io la chiamo la soggezione introiettata, no? Cioè la soggezione che è entrata nel DNA, nel corso dell'evoluzione antropologica, è entrata nel DNA delle persone, questa soggezione, no? Mm-hmm. Per cui siamo soggezionati solo a pensare, a elaborare, no? Spesso ti dice: ma le persone ti dicono: ma stai zitto, stai parlando di politica, di cosa parli? Non bisogna parlare, non bisogna. No? Non so se vi capita questa cosa, sì, questa. Capita spesso. Capai affari, troppo. Ecco, capai affari. E qui entra in gioco, vabbè, Nicola Giunta, eccetera. Andremo, insomma, andremo. L'ha descritto io bene. Penso che quello che manca in Regino veramente sia la voglia di mettersi in gioco, che purtroppo per fortuna per gli artisti alla base poi alla fine dell'esperienza artistica, nel senso che io credo che chiunque abbia voglia di comunicare, cioè l'arte da dove nasce, almeno da mia esperienza personale, un'idea che è innata, un momento in cui tu ti metti in gioco, quindi scrivi cosa? Una canzone, una poesia, un testo, una melodia e via dicendo, ti metti in gioco e poi la porti agli altri, nel senso che comunque la musica poi è anche questo megafono, l'arte in generale, questo megafono che tu porti agli altri. Questo mettersi in gioco in questo momento manca a Regina. Io sono un po' scettico ormai di parlare di mentalità in senso generico. Io penso ci siano, abbiamo acquisito dei mantra, li chiamo io, che sono sbagliatissimi. E il mantra, come dico sempre, più deleterio che abbiamo noi regini è: vedo cosa fanno gli altri e poi ti faccio sapere. Questa frase è alla base, secondo me, di molta tristezza regina. Cioè il fatto di non avere un senso critico personale che dice: ok, tu mi stai parlando di una cosa, mi interessa, va bene, do la mia adesione. No, deve avere il consenso popolare di altri regini che si mettono avanti, vedo cosa fanno loro. E quindi, anche un po' paura, e qua entriamo anche in altri discorsi da pensiero di stampo, diciamo, mafioso, no? Ho paura di dire questa parola usata, diciamo, a sproposito, però è vero, cioè è un po' la stessa radice della realtà. Un po' sì, però è una cosa ancora più generica, sì, capisci? Perché non è non è che dietro c'è un affare personale, un guadagno personale, proprio è una mentalità, quella di accostarsi, accomodarsi agli altri, che secondo me stiamo pagando moltissimo, perché fa parte soprattutto degli ultimi decenni. Quindi comunque vedo meno gruppi che nascono, gruppi musicali, meno persone che hanno voglia di scrivere, di esporsi e di dicendo. Tra l'altro, parlando di spazi e di dicendo, lo ricordo, l'house nasce da questa emergenza di spazio. Io ricordo la prima Zombie Walk del 2010, tu lo sai benissimo perché hai seguito la vicenda, io chiesi tre piazze regine, chiesi la possibilità di fare un concerto in piazza, mi hanno chiesto palate di soldi, documenti, di che partito politico sei, chi ti sta dietro, eccetera. Ragazzi, lasciate perdere, me la vedo io, siamo venuti qua, abbiamo fatto tutto noi, coi ragazzi direttamente. Io mi auguro che nascano spazi da questo punto di vista, tipo il distretto culturale, è una cosa bellissima, perché comunque lo spazio è comunque quella cosa, quel momento in cui ti metti in gioco, almeno quell'opportunità di mettersi in gioco. E certo, ma però diciamo io sono... di proposte ne ho fatte tante, diciamo, nel corso della mia... per esempio avevo fatto una proposta, per esempio, di destinare il 50% del Fondo Unico della Cultura regionale agli artisti del territorio. e poi almeno il 50%, poi il 50% lo si poteva destinare all'ospitalità, no? Ospitare insomma artisti che vengono da fuori, che portano sempre con l'idea che portino un valore aggiunto. Chiaro. Perché chiaramente noi viviamo in provincia, la provincia chiaramente non è Roma, non è Milano, e quindi è in questo penso che l'amministrazione attenta, diciamo, comunque, ma i cittadini stessi, voglio dire, devono farsi portatori di questa esigenza, voi giovani stessi. Allora quando dico, perché chiaramente noi qualsiasi ipotesi facciamo un minimo, una base minima, io per esempio avevo ipotizzato, giusto per riferirmi comunque al discorso musicale, ma vale anche per qualsiasi prestazione d'opera, di può essere quella di un pittore, può essere di un decoratore, può essere di un fotografo, dico anche pochi soldi per esempio, la mia idea era questa, pochi soldi, anche 70 euro di cachet, più con le tasse dell'Empals, la previdenza, quello che era, ritenuto, eccetera, 100 euro per una prestazione per un musicista, significa che io con 400-500 euro ho dato la possibilità a dei giovani di esibirsi con tutte le tasse pagate. Basta avere un impiantino appresso. Io credo che 500 euro non li ho mai visti e sono da Reggio Calabria da 10 anni, diciamo. Dico, però... ma parliamo di cifre irrisorie, voglio dire che tu vai investire, io ho fatto l'esperienza pratica a maggio, ho creato un gruppo dedicato alle musiche delle regine, ho fatto una cosa molto bella, che ho scoperto le musiche per esempio che noi di Nicola, le poesie di Nicola Giunta musicate dai musicisti del tempo, parlo della settembrata calabrese, molti non sanno che noi regine abbiamo avuto dei musicisti straordinari, compositori straordinari. Cilea. No, ma Cilea diciamo, è stato, che ha vissuto più che altro fuori poi Cilea alla fine, anche se è stato un grande compositore di musica lirica. Ma questi compositori che sono stati, hanno composto queste, intanto i testi in dialetto che raccontano la nostra vita, la reginità, anche un misto fra colto e popolare. Bene, quindi musicisti che hanno studiato nei conservatori, parlo di Travia, Benintende, Mantica, adesso sono nomi sconosciuti a voi, ma se andate a scoprire queste musiche, se l'avesse scoperta Pavarotti prima che venisse a mancare, probabilmente l'avrebbe portata al successo Pavarotti, perché sono delle romanze, delle melodie bellissime, con delle bellissime armonie e anche piene di ritmo spesso, perché uniscono la tarantella, cioè. E però sono sepolte dal tempo. Sì, sono lì, esatto, sono lì, io l'ho riscoperta, l'ho arrangiata per una band e devo dire che ha avuto un certo successo, sono piaciute tantissimo. Ecco, ma solo per dire che lì c'è l'espressione del reggino, c'è la bellezza, c'è la poesia, c'è l'incanto. Tra l'altro in un momento del dopoguerra, parlo del 1944, quando era appena finita la guerra qui, quando sono passati gli alleati, quindi vi lascio immaginare, e questo è anche esempio, è un esempio che ci ha lasciato Nicola Giunta, ci ha lasciato delle poesie che sono anche dei moniti, sì. A risvegliarci, a mettere, c'è un, posso citare un verso e dice riferendosi a Regini, questo è un verso di una poesia che si chiama Chiste un mondo. Dice: disgraziati, non avete pace, perché siete tra voi sempre nemici, voi vi inchiti di parole e buci e portate con voi sempre la croce. Ecco, questo verso è attualissimo, una, foto, una fotografia di oggi, cioè, sono passati 60 anni, ma sì, è attualissimo, guarda che, che può essere un pregio dal punto di vista del poeta, certo, però è un difetto, sì, dal punto di vista della realtà. Devi dire che la realtà è dopo 70 anni, allora, 70 anni non cagiona, ecco, il discorso di prestare orecchio, aprirci un po' la mente, un po' di vedere tante posizioni di noi stessi, insomma, certo. Se mi permetto di dire un'ultima cosa, questa cosa del, diciamo, della poca voglia e dalla pigrizia culturale del reggino, cioè si vede sia dal punto di vista artistico barra musicale che anche dal punto di vista scientifico. Ah, sì. Mi permetto di fare un esempio, ricordo l'esistenza di un planetario, sì, da parte della mia ex professoressa del Minci, che appunto era una bellissima iniziativa. Fatto sta che al congresso della Società Astronomica Italiana, quale ho partecipato paio di mesi fa, e insomma ho richiesto di questo planetario, insomma, come vanno le cose, come non vanno, insomma, praticamente quasi chiuso, nessuno sapeva, cioè non c'è nemmeno la, non dico la curiosità umanistica, ma nemmeno c'è, esatto, c'è un altro, c'è bel discorso, un'altra... non voglio entrare in merito, però comunque anche questo è abbiamo sintomo di... moltissimo, addirittura venne qua Cecchi Paone, il noto, che si impegnò personalmente di trovare dei fondi per valorizzarlo, perché era veramente allibito dal fatto che abbiamo un planetario noi a raggio che è l'unico planetario al di sotto, mi sembra, di Napoli. Del 38° paragrafo. Sì, che è quello che taglia Napoli, sì, che passa da New York, eccetera, eccetera. E lui era allibito dal fatto che comunque non era sfruttato, non era pubblicizzato, non era conosciuto e via dicendo. E poi là, non so, perché comunque delle attività sono state fatte, però evidentemente anche lì. Poi la spinta reggitana, diciamo, appunto, in quel caso questo è un esempio in cui lo spazio c'era, però è mancata la curiosità da parte del reggino di voler interessarsi a questa cosa. Mi pare che sul planetario comunque reggini, diciamo, sporadicamente, saltuariamente, mi pare ci sono qualche iniziativa, c'è, ho visto, insomma, che coinvolgono le scuole in qualche maniera, fanno, poi non so esattamente, insomma, quanto si potrebbe sfruttare meglio questo planetario, sicuramente molto, cioè, per quello che è la struttura e per dove è ubicata dovrebbe essere una struttura di rilievo a livello nazionale, sì. Invece lo stesso Cecchi Paone, sì, meraviglioso, comunque era dimenticata ad esempio, potrebbe essere un luogo di divulgazione scientifica, il che non è assolutamente da escludere, certo, ad esempio, certo. Io vabbè, ora sto a Bologna, però a Padova sono stato a varissime serate di divulgazione scientifica, poi in seguito il planetario di Padova, in cui c'era a disposizione, oltre allo speaker, anche un sistema di visualizzazione 3D che ti permetteva di vedere proprio con mano, certo, tra virgolette, e quello che lo speaker ti stava dicendo in quel momento. Quindi è uno strumento potentissimo, secondo me, se è utilizzato a poter. Anche questa è una metafora di questa città, è un grande strumento che deve essere utilizzato a dover. Ragazzi, facciamo un applauso a Reggio Calabria, che paga nel bene e nel male. È la grande madre, a volte avara, però comunque fa parte di noi. Adesso chiudiamo questo spazio con... un momento musicale, Final Minute con Summertime. Il classico. It was a long cold winter. We missed the sun. ragazzi, le notizie dalla strada per questa settimana in salsa un po' vacanziera. Sono notizie sempre abbastanza assurde che abbiamo reperito nel web e non. Allora, innanzitutto, Panda, cosa faresti se trovassi una valigetta con 5 milioni di euro sulla spiaggia? Sulla spiaggia? Sì. 5 milioni di euro? Vai. Sicuramente la riporterei al proprietario. Ma puttana! No! Ma stai zitto! No. No, bro. Questo sicuramente, tra il prenderli tutti e lasciarla là, ne prenderei un po', una parecchia fetta per me e poi me ne andrei. E questa è la cosa democratica. Panda, stai zitto, torna a casa che sei ubriaco. Ma è vero, non è, perché comunque sarebbe troppo rischioso prenderli tutti che poi mi rintracciano. Quindi prenderne un po'. Perché poi, se ne prendi un po', no. Detto, a questo punto dipende, li ricicli. No, perché magari danno a qualcun altro. Appunto. A te. Ma perché? Perché no? Basta prenderli e spegnerli. 5 milioni, 5 milioni di euro, ragazzi. 5 milioni. Milioni di euro. 5 milioni di euro, non sparisci, non sei mai esistito. L'importante è che non vai in Australia, perché all'aeroporto ti fermano e ti chiedono qualsiasi cosa. Tu hai un po' di gingomma in tasca e non l'ha dichiarato, e ci sono 200 euro dollari di multa. E per questo in Olanda ti fermano per dei portachiavi e in Inghilterra ti hai dei pantaloncini troppo corti. Cuba. Comunque, ragazzi, mi sembra impossibile che succeda questo, invece no, perché secondo un'indagine realizzata da Found su un campione di 200 bagnini, emerge che nel solo mese di luglio sono state smarrite sulle spiagge italiane oggetti per un valore complessivo di 5 milioni di euro. Devo fare il bagnino. No, io a questo proposito ricordo un vecchietto della spiaggetta di San Vito Lo Capo con un metal detector che passava la spiaggia a rastrellare e raccogliere tutte le cose. Ma una volta si utilizzava anche questi mezzi un po' all'americana, diciamo, per simulare. E poi, voglio dire, con la crisi. Però visto come funziona, non è una cattiva idea quella del vecchietto. No? Però se tu poi restituisci mi crolla tutto. Restituisce metà, guarda che, sì, che siamo, vedi, abbiamo un messaggio bellissimo che lui ha detto che restituisco, e tu dici no, ragazzi, noi combattiamo gli stereotipi e poi vabbè. Comunque, una bellissima notizia che sa dell'incredibile: la torre di Pisa si sta raddrizzando, ragazzi. No, è incredibile. Ma nel senso verticale o orizzontale? No, verticale. Quindi le persone non potranno più fare la foto di l'euro che la tengono. E infatti, evidentemente, per sfuggire a quella terribile foto delle persone che la tengono, la torre di Pisa si sta raddrizzando di 2,5 cm in 12 anni. Secondo dei movimenti del terreno, che è ovviamente monitorato da questo Comitato Internazionale per la Salvaguardia della Torre. Cioè, delle persone che passano la loro vita a studiare la torre di Pisa, è fantastica questa cosa, cioè per il tempo. E la torre di Pisa si sta raddrizzando, è incredibile. Prossime cose raddrizzabili, le banane. Si può fare. Lasceranno dritte e... Le banane fanno male. OGM. Tutto GM. Banano GM dritta. Secondo Wikipedia le banane si stanno estinguendo. Come? Per colpa di un virus che sta colpendo tutte le piantagioni di banane, mentre si stanno estinguendo. È una tragedia questa, perché la banana è l'unico frutto che mangio, forse. grave. Quindi abbiamo spezzato un cuore. A parte lo zio Pango. Ricordiamo 27 agosto 2013. Questo infiltrato. Tagliategli un dito. Ma a parte questo. Ragazzi, le vostre vacanze vi hanno soddisfatto? Siete contenti di queste vacanze, di come le state trascorrendo? No. Ma tu bravissimo. Sei a casa. No. Andrea non è soddisfatto e per lui abbiamo un'offerta incredibile. Può rivolgersi al Factum Hotel in Svezia. Gradisce anche l'ambiente svedese, quel clima là così. Farai una bellissima settimana vivendo come un barbone. Questo hotel è una cosa. Cosa cambia rispetto alla sua vita di ora? Alla barba. No. Quando no. Ti odio. Questo hotel è così, cioè ha tutta la somiglianza di una stamberga con candele a terra e comunque questo materasso sudicio a terra, e la gente paga per vivere una settimana da senza tetto in Svezia. Invece in Italia pagano per una settimana come in Svezia. Come in Svezia. Una casa, diciamo, pensa tu. Questa è una notizia incredibile, ma ancora più incredibile è che non è originale, perché questo ragazzo californiano, Gregory Cloran, un designer californiano, ha preso un bidone della spazzatura e l'ha ricostruito per farsi una casa per le vacanze. Cioè, un bidone? Abita dentro un bidone. Abita dentro questo bidone della spazzatura che lui ha riconvertito a casa per le vacanze. Vediamo che è accessorio di tutto. Cioè, ha messo questa specie di verandina, questo tettino, questo ovviamente bidone esterno per le vacanze. Beh, un cassonetto è un bidone. Sì, un cassonetto sarebbe quelli degli americani, quindi La gente si ingegna su tutto, E lui si è creduto. Grazie, ragazzo, ormai con venti. Si sta là dentro in qualche maniera, e comunque lui ha passato. Si sta facendo la villeggiatura a New York dentro questa casupola che si è ricavata. Potrebbe essere l'evoluzione 3.0 della House of Bank. Speriamo di no. Questo lo tagli. Tagliategli un altro rito. Però. Ma che cancelli la Maria del tetto, magari un cassonetto della spazzatura. Magari di cattivo gusto, però è ingegnoso. Alla fine ha trasformato una cosa che molti ritengono sporca. Qualcosa che è abitabile, vivibile. Infatti lui ma scusa, perché tu l'hai vista dentro quella casetta? E ci abita. Ma evidentemente. Ma sopra di banana. Al massimo non c'è wifi. Però non lo so, a New York può essere che ha ricavato addirittura un serbatoio per utilizzare l'acqua del tetto, l'acqua piovana, per utilizzarla per farsi la doccia e il bagno, e in questo tetto retrattile che permette alla luce di entrare senza l'uso di finestre. Quindi ha fatto un progetto anche abbastanza, come dire, evoluto per essere un di base a Reggio non si può fare al momento, i cassonetti ci servono, mi pare. non dirlo che non si può fare, Panda, non dirlo, che si può fare tutto, e ce le insegnano i cinesi. Con le case si può fare tutto, si può fare anche una montagna con villa, rocce e boschetto su un grattacielo. Aspetta, e questo l'hanno realizzato in Cina con alberi e rocce. Con alberi e rocce, quindi una villa con alberi e rocce sulla sommità di un grattacielo, e tutto questo è ovviamente abusivo. Realizzato in Cina. Mai. Quindi, cioè, noi qua facciamo magari quel piano, quella terrazza in più di sgamo, eccetera, là in Cina sono andati oltre. Oddio, solo la terrazza non direi. Diciamo che io la definisco arte popolare contemporanea, quella che troviamo nei nostri quartieri. Arte ingegneristica nuova. Non c'è una facciata uguale all'altra, comunque. Ma soprattutto il nostro dramma è l'abitudine di lasciare i mattoni a vista, che è una cosa terribile. Perché al di là di tutto. E quindi lui si è realizzato questa cosa, questa montagnola con questa villa, questi alberi, questi rocce. Vuoi dire un esempio di come? Però è tutta una cosa, è veramente è fantastico. C'è uno, si alza, è in mezzo alla città, si alza, si porta intorno e ti trovi in mezzo alla natura. Sei un vecchio dell'Alpe perché sei tranquillo. No, ma la cosa intrigante è che, cioè, ha portato una montagna su un grattacielo, cioè su un palazzo, no? Ma mi sembra strano che in Cina gliel'abbiano lasciato costruire, insomma, sì, perché no, è illegale. In Cina, non lo so, so che i cinesi lavorano tutta la vita per una casa, perché i costi sono talmente alti. E ti dico anche che avevo trovato un palazzo residenziale di 26 piani su cui ha piazzato questa montagnola, innalzato ovviamente illegalmente. Le autorità, adesso che hanno scoperto ovviamente la cosa, abbatteranno la struttura. Adesso dopo quanto tempo l'hanno scoperta? Ma l'hanno scoperta non perché l'hanno vista, ma perché i vicini si sono lamentati, perché copre un'area di 800 metri quadri, e perché il proprietario tiene a casa ospiti con feste molto rumorose fino a tarda notte. Cioè, l'hanno scoperto perché si faceva le festicciole nella montagnola là sopra. Una volta che fa 30 fa anche 21. Ragazzi, questa è una storia veramente incredibile. Cioè, quando l'ho visto ho detto è da mettere in trasmissione assolutamente. Questa però ecco, chi non vorrebbe vivere, cioè, su una montagna? E l'unica cosa è che è un po' illegale. Per il resto, ragazzi, vabbè, non si può fare tutto. Adesso un momento musicale, i Force con What Sense May Play. What you say is true, then I'll set the table for two. Leave the cleaning for the morning, stay in bed adoring the eyes of which are smiling. To the thought of me, it's me and you. The home in you I find laughs with a bottle of wine. As of now, both eyes are open, looking past a home now broken from a deep sleep I've now woken. To the thought of me, it's me and you. We'll take the long way home, our sneakers wet to the bone. Casting stones behind us, let them lay where they lay, and make sense of the road these emotions may play. And I'll mess up your hair, and you'll give me shit for the clothes I wear. And as I start to clear the table, you'll argue that you're more than able. So I start writing down some songs as you shoot more rockets at bronze. When the game is paused and your lips are puckered, I'm not reminded of why it's me and you. If what you say is true, then I'll set the table for two. Leave the cleaning for the morning, stay in bed adoring eyes of which are smiling. To the thought of me, it's me and you. Un veloce messaggio per i nostri ascoltatori, in vista del prossimo Zio Pangolo Fest il 27 agosto 2013. Vabbè, a parte che insomma, smuovetevi, venite qua e assistete allo spettacolo e partecipate di più agli eventi organizzati in questa città, perché se non lo fate voi non lo posso fare sicuramente io. Yeah. E non mangiate troppi Kinder Bueno, altrimenti vi vengono i coccia. E questa è una cosa che potrà capire soltanto chi viene il 27 agosto allo Zio Pangolo Fest. Adesso verranno tutti. Esatto. questo spazio autogestito di promozione, ma ragazzi. Il back.it, cosa non abbiamo ascoltato in questa puntata della Cena dei Regini, è veramente carichissimo. Ragazzi, scriveteci il back.it, cliccate da Gianni Reggini per contattarci, per comunicare con la trasmissione, e magari in questo confronto, diciamo, generazionale che c'è stato, queste riflessioni, scrivere la vostra riflessione tramite la mail oppure tramite i miei vari contatti che sono presenti sul sito. Sul sito anche adesso è presente l'annuncio di ricerca dello staff, come da qualche giorno avevamo anticipato. Laus, in particolare io, cerco dello staff delle persone che siano semplicemente maggiorenni, responsabili e con una grande voglia di divertirsi, per comunque collaborare alla realizzazione di tutti gli eventi che vado a organizzare, perché vogliamo alzare un pochettino il tiro, vogliamo fare meglio le cose, vogliamo coinvolgere più persone, e quindi c'è bisogno di gente un po' ammesso nuova, che le persone si lasciano coinvolgere. Esatto, quindi anche dei comunicatori sociali sto cercando, esatto, che coinvolgano le persone. Uomini e donne, maggiorenni, responsabili, appunto, grande voglia di divertirsi, che cosa c'è da fare: venire alle feste più esclusive della città, partecipare ai eventi più originali che Reggio abbia mai conosciuto e comunque dare una angurie c'è questo disturbo. Abbiamo questa puntata, c'era Andrea più calmo, abbiamo un altro disturbatore. C'è stata questa, non possiamo esagerare, una di episodio. Ragazzi, in particolare salutiamo la signora Grazia da Messina che ci ha scritto e che merita assolutamente un applauso per la sua famiglia e i suoi figli. Grande grazie, bene duro. E Panda, dica pure, sei pronto per la ricerca di staff? Di cosa ci vuoi? Cosa, un messaggio da dare a chi ci ascolta di lì che dice: scrivo o non scrivo? Mi propongo come staff o non mi propongo come staff? Aspetta. Sottofondo musicale triste. No. Più violini. Un messaggio per chi, per coloro che vogliono, per il modo che le persone pensino a partire come staff. Personalmente vi dico questo: prima di venire all'house o back, prima di conoscere il back, avevo un carattere molto più introverso. Però grazie al back ho potuto ampliare la mia mente. Ho scoperto una parte di me che era capace di fare cose. Mi sono creato una mia piccola capacità di poter organizzare piccole e grandi cose, che ho ampliato fino ad adesso, tutto venendo le prime volte a fare un po' di gioco di ruolo al vivo. Quindi l'auto back non permette soltanto non ha solo la parte ludica e divertimento, fa crescere, ci fa divertire. Ha tutta una parte misteriosa e fantastica che ci prende e che ci permette di fare cose che neanche immaginiamo di poter fare. E quindi adesso House of Back per il sociale. Tutti sul back! Facciamo un applauso perché non l'ho pagato e quindi. Lo ribisco con un applauso. Ragazzi, un salutone a tutti, a settimana prossima se tutto va bene. Ciao!